Capitolo VI. I riti di comunione. Nella comunione Cristo si dona a noi come cibo dell'anima. Nell'adoro te devote si recita: pane vivo che dai la vita all'uomo, fa che la mia mente viva di te e gusti sempre il tuo dolce sapore. Con la santa comunione l'anima si unisce intimamente a Cristo e con Cristo al Padre e allo Spirito Santificatore. A questo proposito, Benedetto XVI osserva: nell'Eucaristia l'adorazione deve diventare unione. Con la celebrazione eucaristica ci troviamo in quell'ora di Gesù di cui parla il Vangelo di Giovanni. Mediante l'Eucaristia questa sua ora diventa la nostra ora, presenza sua in mezzo a noi. Per questo il Concilio Vaticano II esorta: si raccomanda molto quella più perfetta partecipazione alla messa per la quale i fedeli, dopo la comunione del sacerdote, ricevono il corpo del Signore dal medesimo sacrificio. Sentiamoci incoraggiati, quando abbiamo la presenza reale di Cristo in noi, a stare con Lui devotamente e con amorosa e forte tenerezza. Sono molto opportune le parole del Salmo: quid retribuam domino pro omnibus quae retribuit mi? Salmo 116. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Facciamo un parallelo tra Cristo e noi. Da parte sua, Lui si dona completamente. Nella sua onnipotenza e nel suo amore infinito non può darsi più di così. Da parte nostra, invece, noi opponiamo numerosissime resistenze a corrispondere con piena generosità. Per ottenere il maggior frutto possibile dalla comunione, dobbiamo curare la preparazione remota e quella ravvicinata. San José María insegnava e incoraggiava a cercare la presenza di Dio durante il lavoro, a conservare il raccoglimento nelle ore che precedono la messa, a pregare intensamente nei momenti di orazione, a impegnarsi nella celebrazione o nella partecipazione al santo sacrificio. Questi comportamenti faranno in modo che il nostro pensiero vada frequentemente al sacrificio dell'altare che abbiamo celebrato o al quale abbiamo partecipato. Desidereremo accompagnare Cristo in tutti i tabernacoli del mondo. Il Padre nostro, preghiera dei figli di Dio. Il celebrante inizia ricordando agli astanti la loro dignità di figli di Dio e li esorta a recitare l'orazione domenicale. Gesù è il cammino, il mediatore. In Lui tutto, senza di Lui nulla. In Cristo, istruiti da Lui, osiamo chiamare Padre nostro l'Onnipotente, colui che fece il cielo e la terra è questo Padre affettuoso in attesa che ritorniamo a Lui ogni volta, ciascuno come un altro figlio al prodigo. Dovremmo riscoprire quotidianamente l'ammirabile realtà della nostra filiazione divina, una cosa tanto grande e di tale splendore da causare stupore tra gli angeli, ammirazione in cielo e turbamento sulla terra. Dio è nostro Padre e noi siamo Suoi figli, figli tanto più amati quanto più assomigliamo all'Unigenito. Efesini 1:5, Romani 8:29. Bisogna essere consapevoli della radice divina della nostra vita e agire in conseguenza. Per dirla in altre parole, occorre lottare con gioia per comportarci come figli di Dio lungo le 24 ore della giornata, senza tollerare fratture né divisioni della nostra esistenza, in piena unità di vita. Supplichiamo umilmente il Paraclito affinché ci conceda la grazia di non abituarci a considerarci, ad agire, a chiamarci con il santissimo nome di figli di Dio. Decidiamoci a coltivare lo spirito di filiazione divina, a meditare assiduamente questa verità: sono figlio di Dio in Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Come insegna Sant'Ambrogio, pensare e operare in questo modo, muoversi abitualmente con la certezza di essere figli molto amati dal Padre Celeste, non implica supponenza. Qui non c'è arroganza, ma soltanto fede. Vantarti di ciò che hai ricevuto non è segno di superbia, ma ma di pietà. Alza dunque gli occhi al Padre, il quale ti ha generato per mezzo del lavacro, al Padre, il quale ti ha redento per mezzo del Figlio suo, e di Padre nostro. Dio ci spinge a divenire suoi imitatori, quali figli carissimi, Efesini 5:1. Però è Lui il Santo per eccellenza. Ci incoraggia pertanto a coltivare un ardente anelito di santità. Per questo preghiamo, sia santificato il tuo nome. San Giovanni Crisostomo commenta che santificato significa qui glorificato e aggiunge: è come se dicessimo a Dio: concedici di vivere in modo così puro e perfetto che tutti vedendo noi ti glorifichino. La perfezione del cristiano sta proprio in questo, nell'essere così irreprensibile in tutte le sue azioni che chiunque lo vede per esse rende lode a Dio. Se permettiamo a Dio di operare in noi, diverremo davvero capaci di trasformare radicalmente, con la sua grazia, questo nostro mondo, come hanno sempre fatto i santi. Per ricondurre a Dio tutte le cose, è necessario che ci comportiamo in tutti i momenti come persone che, spinte dallo Spirito Santo, si sforzano di riflettere nella loro condotta quella di Cristo. È proprio l'anelito che esprimiamo nel Padre nostro. Il cristiano domanda che Dio sia santificato nei suoi figli di adozione, come pure in quanti non sono ancora stati raggiunti dalla sua rivelazione, nella consapevolezza che è mediante la santità che egli salva l'intera creazione. Venga il tuo regno. È un altro modo di manifestare il desiderio che il nome di Dio sia santificato in tutte le creature. Sin da adesso regna nelle anime con la grazia, però soltanto alla fine del mondo, quando Cristo tornerà glorioso per prendere definitivamente possesso del regno conquistato sulla croce, Dio sarà tutto in tutti. 1 Corinzi 15:28. Questo anelito santo dell'avvento di nostro Signore, così vivace nella Chiesa dei primi tempi, 2 Pietro 3:9-10, Apocalisse 22:20, non distoglie i credenti dalla quotidiana missione nel mondo, anzi li impegna maggiormente. Finché non sarà giunto il momento in cui Cristo consegnerà il regno a Dio Padre, 1 Corinzi 15:24, a noi cristiani spetta la responsabilità di preparare la sua venuta gloriosa con il nostro lavoro. Ci tocca affrontare ogni compito nella convinzione che ogni cosa serve per l'edificazione del regno di Dio, oppure per essergli di ostacolo. Rinnoviamo quindi il nostro profondo desiderio di impegnarci con lealtà nella costruzione del regno. Consideriamo fino a che punto valorizziamo l'adempimento dei diversi doveri, anche i più piccoli, sicuri che non esiste materia senza importanza per coloro che amano Dio in pienezza. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Recitando queste parole chiediamo a Dio: così come si compie la tua volontà per gli angeli che sono nei cieli, senza che alcun errore oscuri la loro saggezza, senza che miseria alcuna impedisca la loro beatitudine, così tale volontà si compia per i santi che sono in terra. Finché viviamo qua giù, nessuno di noi è stabilmente confermato nella grazia. Sarà sempre necessario lottare per amore fino all'ultimo istante, sforzandoci di identificarci sempre di più alla santissima volontà di Dio. Quest'ultima supplica della prima parte del Padre nostro presuppone un implicito riconoscimento della necessità di non abbandonare la lotta per la santità. Si tratta di un invito a ricominciare ogni giorno con eleganza, ricordando che soltanto una serie di conversioni consecutive sotto la spinta della grazia ci porteranno alla pienezza della filiazione divina in Cristo. La supplica per tutte le necessità. Siamo povere creature. Abbiamo bisogno di stringere con forza la mano di Dio, ripetendo in diversi modi parole spesso presenti nel Vangelo, come per esempio: Domine, adiuva me, Matteo 15:25, Signore, aiutami. Per questo siamo invitati a chiedergli aiuto nella messa e anche ogni volta che recitiamo nel Padre nostro: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno durante l'esistenza terrena è contenuto in questa richiesta. Quanto è necessario per la vita corporale, il cibo, la salute, il vestito, gli strumenti di lavoro, come pure l'aiuto per essere efficaci e incisivi nel nostro apostolato con le anime. Se oltre a pregare il Padre nostro utilizziamo i mezzi umani a nostra disposizione, a cominciare dal lavoro, dobbiamo essere sicuri che il nostro Padre Dio si incaricherà di darci tutto ciò che necessitiamo. In merito a questo, possiamo contare sulle parole di un sacerdote esemplare che spesse volte nella sua vita sperimentò tale realtà. Le opere al servizio di Dio non vanno mai in rovina per mancanza di denaro, vanno in rovina per mancanza di buono spirito. Tuttavia, la fiducia nella provvidenza divina è del tutto incompatibile con l'inquietudine per il futuro e con il desiderio smodato di ricchezze. Nel commentare questa petizione del Padre nostro, numerosi padri e scrittori ecclesiastici spiegano che quando nella preghiera del Signore diciamo oggi, ci viene insegnato a preoccuparci soltanto del giorno che sta passando, non di fare delle previsioni per tutta la vita, perché il nostro animo non venga preso dall'ansia del tempo futuro. Perciò il Signore avverte: non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Matteo 6,34. Con l'invito a un pieno abbandono nelle mani di Dio, ci si insegna che noi tutti cristiani dobbiamo amare e praticare la povertà di spirito. Soffermiamoci in un esame di coscienza personale per considerare come viviamo questa virtù che nostro Signore abbracciò dalla culla fino alla croce. Chiediamoci con quale gioia ne accettiamo le conseguenze pratiche, quali che esse siano, nella nostra personale esistenza. Così eviteremo la triste schiavitù nella quale molti cadono perché dimenticano la loro condizione di figli di Dio, mentre si affannano per un domani e un dopodomani che forse non arriveranno neppure. Siccome non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, Matteo 4,4, nel cibo che Gesù ci invita a chiedere è compreso anche quello che sostenta l'intelligenza. Il vero pane è quello che nutre l'uomo vero, fatto a immagine di Dio. Colui che si nutre di questo pane si rende anche più somigliante al Creatore. Che cosa c'è in effetti di più idoneo ad alimentare l'anima se non il Verbo? Che cosa di più prezioso della saggezza divina per lo spirito di chi può comprenderla? Che cosa di più conveniente a una natura razionale se non la stessa verità? Dio ci ha comunicato tale verità per mezzo dei profeti e soprattutto inviando nel mondo il Figlio unigeto. Ebrei 1,1,4. Il Verbo incarnato, il quale ha affidato alla Chiesa la dottrina di salvezza. La parola di Dio contiene il pane supersostanziale, Matteo 6,11, che nutre le menti dei cristiani. Ma anche ciò che vi spiego, insegnava Sant'Agostino ai fedeli, è pane quotidiano, e così anche le letture che ascoltate ogni giorno in chiesa è pane quotidiano, e l'ascoltare e recitare inni è pane quotidiano. Questi sono i sostegni necessari al nostro pellegrinaggio terrestre. Questa supplica si riferisce eminentemente al cibo eucaristico, come attestato dall'interpretazione dei padri della Chiesa sin dai primi secoli. San Cipriano commentava in proposito: Cristo, infatti, è pane di vita, e questo pane non è di tutti, ma è nostro, di coloro che lo riconoscono e credono in Lui. Per questo chiediamo che ci sia dato ogni giorno il pane nostro, cioè Cristo. Sant'Ambrogio aggiunge: ricevi ogni giorno ciò che ogni giorno ti deve far bene, e vivi in modo da essere degno di riceverlo ogni giorno. Sappiamo bene che in senso proprio nessuno deve considerarsi perfettamente degno di partecipare al banchetto eucaristico. Ci viene tuttavia concessa la Santa Comunione non come premio per le nostre virtù, ma come alimento necessario per mantenere e sviluppare la vita soprannaturale. Perciò la Chiesa esige dai fedeli, perché si comunichino con frutto, che abbiano la coscienza pulita, non macchiata da alcun peccato mortale attuale, oltre che la retta intenzione e il rispetto delle norme relative al digiuno eucaristico. È peraltro del tutto logico lo sforzo per mostrarci il meno indegni possibili, ricorrendo frequentemente al sacramento della penitenza e disponendoci al meglio per ricevere la comunione. In questo ambito sono numerosi gli aspetti da considerare nel nostro esame di coscienza. Cerchiamo di formulare, giorno dopo giorno, propositi per stare con maggiore delicatezza e affetto con Gesù che si dona a noi, inerme, nel Santo Sacramento dell'altare. Il perdono di Dio e il perdono ai fratelli. Quando ci prepariamo alla comunione, rivestono grande importanza le parole: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quanto grande e fine è la misericordia di Dio. Perdona le nostre colpe quando glielo chiediamo, senza ricordarsene più. In merito, Giovanni Paolo II ha scritto: il perdono e la riconciliazione sono il grande dono che ha fatto irruzione nel mondo dal momento in cui Gesù, inviato dal Padre, ha dichiarato aperto l'anno di grazia del Signore. Luca 4,19. Inoltre, Cristo ci viene incontro quando ci allontaniamo da Lui con il peccato, come il pastore che va in cerca della pecora smarrita, come il padre che attende il ritorno del figlio prodigo. Luca 15,1-32. Se poi noi, sostenuti dalla sua grazia e facendo un retto uso della libertà, non ci separiamo da lui con il peccato, continua a concederci abbondantemente grazia su grazia affinché cresca la nostra unione con lui. Cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Salmo 51,19. Dio non disprezza un cuore contrito e affranto. Sono parole che affluivano di frequente alle labbra di San Josemaria con la forza di una profonda e sincera contrizione. Recitandole assaporeremo il perdono di Dio Padre e ci disporremo a perdonare e a scusare più facilmente coloro i quali, consapevolmente o inconsapevolmente, ci hanno offeso. Sforzati, se è necessario, di perdonare sempre coloro che ti offendono, fin dal primo istante. Perché per quanto grande sia il danno o l'offesa che ti fanno, molti di più ti ha perdonato il Dio. Questa prontezza nel perdonare è una delle più chiare manifestazioni dei tratti autentici dei veri figli dell'unico Padre Celeste. Nel nostro cuore non deve annidarsi alcuna barriera che ci separi dagli altri. Saper perdonare, non conservare rancori né risentimenti verso chi ci abbia offeso, è un requisito indispensabile perché il Signore perdoni noi e perché possiamo riceverlo in modo degno. Questo cammino si riassume in una sola parola: amare. Amare vuol dire avere il cuore grande, sentire le preoccupazioni di quelli che ci circondano, saper perdonare e comprendere, sacrificarsi in unione a Gesù Cristo per tutte le anime. Perdonare con prontezza qualsiasi offesa è la chiave che apre la porta alla petizione successiva che rivolgiamo al Padre del Cielo. Non ci indurre in tentazione. Una supplica di enorme importanza per noi che siamo ancora pellegrini su questa terra in viaggio verso l'eternità, con il rischio di non giungere alla meta. Nel mondo la vita stessa è una prova, poiché, come assicura il Signore, l'uomo compie un duro servizio sulla terra. Giobbe 7,1. Chiediamo dunque che Dio non ci abbandoni al nostro arbitrio, ma che in ogni momento ci guidi con pietà paterna e ci mantenga sul sentiero che conduce alla vita con la sua celeste protezione. Nessuna creatura è immune da tentazioni. Le permette il Signore. Il crogiuolo è per l'argento e il forno per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore. Proverbi 17,3. La nostra consapevolezza di essere figli di Dio in Cristo, figli di un Padre che ci concede la sua grazia affinché ci muoviamo sempre su di un piano soprannaturale, ci colmerà di sicurezza nei momenti di prova. Per tale motivo Gesù ci ha insegnato a rivolgersi a Dio Padre proprio così: et ne nos inducas in tentazione, non ci lasciar cadere in ciò che ci allontana da te e ci inclina disordinatamente verso le creature. Ci rimane pertanto sempre la possibilità di dialogare con nostro Signore di fronte a qualsiasi ostacolo, in filiale conversazione. È un'osservazione assennata quella che sostiene che se ci riconosciamo figli di nostro Padre Dio, potrà forse esserci nella nostra vita qualche grave inquietudine? Persino dal punto di vista psicologico è buona cosa considerare la nostra filiazione divina. In conclusione, per l'apostolato non c'è roccia più sicura della filiazione divina. Per il lavoro non c'è fonte di pace al di fuori della filiazione divina. Per la vita familiare non c'è miglior ricetta e così si rende la vita gradevole agli altri. Per quel che riguarda i nostri errori e per quanto possiamo toccare con mano le nostre miserie, non esiste consolazione più grande né facilitazione maggiore che considerare con frequenza la nostra filiazione divina, se davvero desideriamo il perdono e la conversione. Qualsiasi cosa accada, dobbiamo sempre invocare Dio con fiducia di figli, pregando liberaci dal male, oppure pregando come insegnano alcuni interpreti della Scrittura, liberaci dal maligno, il quale vuole ostacolare il disegno di Dio e l'opera di salvezza da Lui compiuta in Cristo.